Buongiorno a tutti. Il programma prevede di parlare di antenati e sedie elettriche e di interlocutori leggermente diversi in conigli e lombrichi. Se c'è tempo parleremo anche di tecnici.